I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Il rapporto annuale diffuso dal Credit Suisse sulla ricchezza mondiale, si chiama Global Wealth Report, ha due aspetti particolarmente interessanti per due paesi, e mi riferisco all'Italia e alla Gran Bretagna. Nel caso del nostro paese, infatti, il Credit Suisse fotografa una ricchezza media netta per italiano adulto che è scesa a valore di cambio costante di quasi l'1%, ossia da $204,000 nel 2015 a $202,000, circa €190,000. Occorre chiarire che per ricchezza media si intendono per ogni italiano adulto la somma della ricchezza immobiliare, leggi in primo luogo casa, e di quella mobiliare, ossia investimenti in primo luogo in azioni e obbligazioni. Quello che è interessante notare è che il calo della ricchezza media netta per italiano adulto è dovuto principalmente alla flessione della borsa, della cosiddetta ricchezza mobiliare, scesa di quasi 6% a cambi costanti. Meno ha inciso invece il calo, anche perché non si è registrato, se non in qualche caso, dei valori immobiliari. L'altro caso interessante riguarda invece la Gran Bretagna. La Gran Bretagna, secondo il rapporto del Credit Suisse, infatti ha perso circa il 15% dei suoi milionari, in primo luogo per le turbulenze dei mercati e il calo della sterlina, conseguenza della Brexit. Ma il Credit Suisse avverte: attenzione, il futuro appare molto incerto per l'economia nazionale britannica, ma anche e soprattutto per la ricchezza privata dei cittadini di Sua Maestà. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il percorso che porterà la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea è ancora indefinito, sia nei tempi sia nei modi. Fin dal referendum del giugno scorso è stato un susseguirsi di studi, di ricerche, di previsioni sugli effetti che Brexit avrebbe avuto sull'economia britannica. Ora a fare i conti è proprio il governo di Londra, che oggi ha presentato la sua manovra finanziaria d'autunno. Che cosa emerge? Londra conferma che la crescita del 2016 sarà del 2,1%, un po' più consistente di quanto era stato previsto prima del referendum. Tuttavia, negli anni successivi la Brexit si farà sentire con una lunga serie di previsioni al ribasso. Nel 2017, per esempio, il PIL si fermerà all'1,4%, 0,8 punti in meno del previsto, e le cose proseguiranno in questo modo almeno fino al 2020, quando la crescita ritroverà il ritmo immaginato prima di Brexit. Peraltro verrà meno un vecchio adagio conservatore, perché la Gran Bretagna rinuncerà fino al 2020 al pareggio di bilancio. Londra lascerà correre il deficit e l'indebitamento aumenterà di 120 miliardi di sterline in 5 anni. L'addio a Bruxelles comincia dunque a prendere corpo, anche se effettivamente ancora nessuno sa quali saranno le reali conseguenze. Intanto una cosa è certa: Londra farà il più volte annunciato taglio delle tasse sulle imprese, ma anche in questo caso con cautela. Entro il 2020 l'aliquota scenderà al 17% e non al 15%, come qualcuno aveva ipotizzato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.